Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Voi siete qui, di Matteo Caccia. Mi trovai subito bene con la nuova squadra e le parate non tardarono ad arrivare. Poi un giorno il presidente mi chiamò e mi disse che dovevo fare tre provini: Napoli, Bologna e Torino. Era un sogno per me. Non credevo che avrei superato queste prove e invece le superai tutte e tre. Sono Roberto, vivo a Noale, in provincia di Venezia. Ho 46 anni e lavoro per un'azienda che si occupa della completa gestione dei rifiuti. C'è qualcuno di là da queste casse che sta ascoltando la radio in questo momento? Probabilmente stai guidando la tua macchina o magari stai facendo un lavoro per cui puoi tenere la radio accesa perché non ti distrae abbastanza e quindi stai lavorando. Oppure stai semplicemente passando il tuo tempo, magari stai passeggiando e hai le cuffie nelle orecchie. C'è comunque qualcuno lì che quando era più giovane, qualche anno fa, in quello che faceva era il più forte. Te lo ricordi, no? Che tutti parlavano di te. Tutti sapevano che quando entravi in un luogo, se si trattava di uno sport o di un'attività professionale o anche di una cosa piccola che accadeva solo in famiglia, tutti sapevano che eri più forte. Eri il migliore. Non c'era nessuno come te. Ti guardavi in giro e tutte le volte che provavi, che ti mettevi alla prova, che c'era un test, eri il vincitore. Ok, e tutti lo sapevano. E tutti sapevano che saresti diventato qualcuno o qualcosa in quella roba lì. E invece no. E invece non ce l'hai fatta. Sono le 16:09 minuti, questa è Radio 24. Sono, direi, il 18 di settembre di un mercoledì. Mercoledì oggi. 2013. E oggi parliamo di questa cosa qua. Parliamo con tutti quelli e di tutti quelli che erano fortissimi a fare qualcosa, però alla fine, per un motivo o per l'altro, non ce l'hanno fatta. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook del programma che è Voi Siete Qui, Radio 24, dove ad esempio Cristina scrive: pallavolo a un soffio della serie B a 22 anni, una macchina mi investe, frattura della rotula, ho dovuto rinunciare al mio sogno ma ho continuato a giocare in serie D per altri 8 anni. Ecco, non ci deve essere per forza un infortunio o un incidente, ed è la storia di Roberto che sto per raccontarvi. È che va così. Roberto, devo dire, un po' mestamente chiude il suo racconto in un modo che sentirete tra poco, che dice, no, è che era destino, non dovevo farcela. Non so quale sia il vostro destino e non so perché non ce l'avete fatta. Se però eravate davvero i più forti in quella roba lì, ma vale tutto, vale sport, lavoro, ruoli sociali. Insomma, eravate i più forti, ma non ce l'avete fatta. Oggi è la puntata per voi. 349-238-6666. Ho il profilo Twitter, Voi Siete Qui, R24, tutto per raccontare una storia che è la storia di Roberto. La raccontiamo subito, come al solito abbiamo la storia di una persona che partecipa a questo programma. Nella seconda parte, visto che si parla di un ruolo ben preciso in questo caso, che è un ruolo sportivo ed è il portiere, abbiamo il portiere di riferimento per tutti noi, il portiere che si pensa quando si pensa a un portiere, Dino Zoff, in diretta dopo la borsa. Adesso la storia di Roberto. La mia storia inizia sui prati, tra il poco verde e i tanti sassi di un campo di calcio che confinava con casa mia. Dalla finestra del salotto potevo vedere tutte le partite della domenica, dalle giovanili alla prima squadra. Tutto però ebbe inizio da una figura che abbagliò ai miei occhi, Dino Zoff. Le sue parate, il modo con cui si poneva in campo, la sua serenità, la sua tecnica. Volevo essere come lui. Andai con mia madre a comprare la sua maglia, avevo poco più di 10 anni. E da quel momento, come un bimbo felice, avevo sempre la sua maglia addosso. Dalla gioia e passione che avevo a quel tempo mi allenavo 2 volte al giorno, prima con i piccoli e poi con la mia squadra. Non sentivo la stanchezza. Dopo alcuni riconoscimenti in medaglie e coppe varie, un bel giorno una squadra di città mi volle portare con sé ed io accettai ben felice. Mi trovai subito bene con la nuova squadra e le parate non tardarono ad arrivare. Ho iniziato proprio da piccolo, da bambino a 8 anni, e ho iniziato subito a fare il portiere, però poi serviva un altro ruolo e così a 10-11 anni ho fatto lo stopper per un anno, ma dopo ho iniziato a correre dietro al mio sogno del portiere. Un giorno il presidente mi chiamò e mi disse che dovevo fare 3 provini, Napoli, Bologna e Torino. Era un sogno per me. Non credevo che avrei superato queste prove e invece le superai tutte e 3. A questo punto dovevo scegliere dove andare. Mi consigliarono Bologna perché aveva una grande scuola di portieri e io seguii il consiglio. Mi ricordo che partii per il centro sportivo di Casteldebole. Avevo quasi 15 anni. All'improvviso mi trovai solo e lontano da casa. Ero un po' spaventato, i miei non avevano molte possibilità economiche e così li vidi poco in quell'anno. Ma ci sentimmo spesso, dalla cabina a gettoni del campo. La notizia più triste però, una volta arrivato a Bologna, era che il mio allenatore, che è quello che mi aveva scelto, non si era messo d'accordo con la società e invece di venire con me a Bologna si accordò con la Sampdoria. Al posto suo arrivò Vavassori. Il calcio è fatto di valutazioni personali e bisogna accettarne le conseguenze. Purtroppo per me la valutazione di Vavassori nei miei confronti non era positiva. Fatto ancora più grave fu che quell'anno la società aveva dei seri problemi economici. La squadra retrocesse in B e ne conseguirono delle scelte drastiche. Delle 20 giovani promesse che eravamo, rimasero Pagliuca, Marocchi, un certo Gazzaneo, che giocò poi con l'Avellino, Luppi, che ha giocato anche con la Juventus, come Marocchi, e lo scomparso e grande Pazzagli. Tutti gli altri, compreso me, fecero ritorno con grandissima delusione a casa. Ebbi un breve ritorno un anno dopo in una squadra emiliana che però militava nei dilettanti e alla fine del secondo e ultimo anno con quella società venni scelto come portiere nella nazionale dilettanti. Andammo in Africa a giocare due partite di nessun valore calcistico contro il Mogadiscio in Somalia. Fu una settimana da panico. Non c'era acqua per lavarsi, il cibo era da dimenticare. Al medico venne la dissenteria. Ho iniziato all'età di 17-18 anni a prendere i primi soldi. Chiamiamoli un rimborso, non è proprio un vero stipendio. Dopo l'Africa andai a Bogliasco per la Sampdoria e rimasi due giorni. Ma non resti a quella tipologia di allenamenti. Non avevo nelle gambe quel carico. Tornai a casa senza nulla di fatto. Poi feci un provino per il Varese, a quel tempo c'era come allenatore Altafini, una persona simpaticissima, ma anche lì nulla. Andai a Parma per una prova di una giornata, ma niente. Gli anni passarono ed arrivai ad avere 21 anni. Vinsi un campionato subendo solo 6 gol. Il mister mi portò a fare una prova alla SPAL, anche lì fallì. Giocai alla massima serie dei dilettanti levandomi qualche piccola soddisfazione. Arrivai a non prendere gol per più di 1000 minuti. Ho girato molte società. Ho vinto dei campionati e dei trofei regionali, ma il mio destino credo sia stato segnato fin dalla nascita. Doveva andare così. Bisogna sapersi accettare per quello che si è. E sono felice per quelli che ce l'hanno fatta. Quando un portiere respinge di pugno, fa solo il proprio dovere. Se l'attaccante spara il pallone addosso al portiere, quest'ultimo la bravura sta nel farlo sparare, perché non è da tutti andare incontro al lampo di un bolide scagliato sui 200 orari e farsi trovare. Quando un portiere rimedia distinto lo sbaglio di un difensore, dei suoi compagni rifiuta gli abbracci e aspetta il corner sul palo. Un colpo di reni e la palla è lontana, spinta da mille pensieri. Tu che vuoi sapere che distanza ha il palo della porta da una libertà trovata prima di te. Non c'è niente da fare, il portiere è sempre stato un ruolo diverso dagli altri. Intanto perché è l'unico che può toccare la palla con le mani in uno sport che si chiama calcio. Uno sport dove in 10 hanno la maglia uguale e uno no. Il portiere. In più, mentre tutti gli altri corrono, lui deve stare fermo. Attento a non perdere i movimenti degli altri. Il portiere deve avere una concentrazione fuori dal comune. Gli altri trovano il loro senso nella sfida, nello scontro. Per lui tutto sta nel farsi trovare al posto giusto, al momento giusto. I calciatori negli altri ruoli raggiungono la maturità intorno ai 25 anni. Un portiere non prima dei 30. Ha bisogno di più tempo. Quando il pallone entra nell'area piccola, quel rettangolo minuscolo dentro l'area di rigore, tutto lo stadio ammutolisce, per un attimo. Il pubblico si alza in piedi, e la situazione si fa seria. Ecco, l'area piccola è la casa del portiere. Gli altri giocatori sono di passaggio nell'area piccola, non resistono a quello stress. Il portiere invece ci passa tutti i 90 minuti di una partita là dentro. Devi amare quella tensione, altrimenti è insopportabile. Quando la squadra fa gol, tutti si abbracciano e si rincorrono. Tutti, tranne il portiere. C'è una poesia di Umberto Saba che racconta molto bene l'esultanza del portiere. La sua squadra ha appena segnato e anche lui festeggia. E festeggia così. Presso la rete inviolata il portiere è rimasto, ma non la sua anima. Con la persona vi è rimasta sola. La sua gioia si fa una capriola, si fa baci che manda di lontano. Della festa egli dice: anch'io son parte. Devi per forza essere una persona speciale per scegliere di fare il portiere. Quasi tutti i grandi portieri della storia hanno cominciato in altri ruoli, salvo poi cedere al richiamo ancestrale della porta. E in un ristorante, in un'osteria sotto casa mia, c'è una piccola foto appesa alla parete. Sembra una figurina Panini di qualche anno fa. E ci sono due uomini. Uno nero, coi capelli cortissimi, sta sorridendo. E gli si vedono i denti. Indossa una maglietta gialla con i bordi verdi. L'altro è molto più alto del primo, è bianchissimo ed è pettinato con la riga da una parte. I suoi occhi sono malinconici, distanti, anche lui sorride, ma è un sorriso solitario, più consapevole di quello del suo amico. Ha i guanti e una maglia nerissima. Un giorno che ero là a pranzo, non ho resistito e ho chiesto di quella foto. L'ho chiesto al Beppe, il proprietario. «Sono Pelé e Yashin», mi risponde. «Sono il fantasista, il 10, e il portiere, l'1. I ruoli più belli», mi dice. Se domandi in giro chi è il miglior 10 della storia, qualcuno ti dice Pelé, qualcuno Maradona, quelli giovani ti dicono Messi. Per il portiere però sono tutti d'accordo. Il migliore è stato quello lì. Veniva da un altro pianeta quello lì, dammi retta. Il Beppe lascia la sua postazione in cassa e si siede vicino a me. E continua. Yashin era il portiere della Dinamo Mosca negli anni 50 e 60. È l'unico portiere della storia ad aver vinto il Pallone d'Oro nel 1963. Il campionato in Russia durava 27 partite. In 27 partite lui ha preso appena 6 gol. Lo chiamavamo tutti il ragno nero. Ma guarda bene nella foto. La divisa è blu scuro, solo che la televisione era in bianco e nero. E quindi l'abbiamo saputo tardi. E quando l'abbiamo saputo ci siamo rimasti male, però mica potevamo cambiargli il soprannome. Come lo chiami? Il ragno blu. A una partita ai mondiali un attaccante gli ha tirato un calcio in un occhio. Lui si è fatto bendare e ha continuato la partita con un occhio solo. Giocava sempre con un cappellino in testa e addirittura per demoralizzare gli attaccanti qualche volta vedeva arrivare il cross, saltava, si toglieva il cappellino con calma in aria e li anticipava di testa. In Russia gli hanno perfino intitolato una specie di stella. Ecco, Roberto, l'autore della storia di oggi, è stato a tanto così dal diventare un portiere professionista e da come la racconta sembra proprio che i numeri per farlo, per diventarlo, ce li avesse tutti. In Brasile si dice che il portiere è il ruolo dei matti. Forse Roberto non è stato abbastanza matto, però può sempre raccontare che c'era un altro che come lui incassò solo 6 gol in una stagione. Si chiamava Lev Ivanovich Yashin. C'è stato qualcuno che non ha apprezzato la canzone che oggi ha scelto Tiziano, che si intitolava Il Portiere, che è un pezzo dei Diaframma, che Tiziano mi diceva essere famosi, è una sorta di cult dei Diaframma. Vi ricordo che tutti i brani che scegliamo, che sceglie Tiziano Bonini, li trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. Ci sono i 3 brani che mandiamo in onda e che potete sentirvi immediatamente cliccando sul nome del brano. Vi ricordo anche che se non riuscite ad ascoltare il programma in diretta, ci sono dei podcast che potete scaricare sia dal sito di Radio 24, sia da iTunes, abbonandovi gratuitamente. Ma Margherita di solito twitta tutto, quindi se avete un profilo Twitter, giusto? Anche i podcast twittiamo. Tutto, Margherita twitta tutto, che sembra il titolo di un film, di un brutto film italiano che può uscire tra 5. Margherita twitta tutto e c'è il logo di Twitter sui cartelloni, è presente? Oddio, che malinconia. 349-238-6666. Non ero il più forte, ma ero un bravo alpinista. Al momento giusto è mancato il coraggio di mollare tutto e il lavoro ha vinto. Max da Pinerolo, il mio messaggio preferito però, una volta in sala giochi ho finito 7 volte consecutive il gioco Commando. Ho interrotto solo perché un amico mi ha detto me so rotto, andamosene. Magari potevo fare il record mondiale. Vallo a sapere. Chissà dove poteva arrivare Roberto. Vallo a sapere, non lo può sapere neanche lui. Pronto Roberto? Sì, sono qui, ciao. Come stai? Benissimo, grazie. Dove ti trovi adesso, Roberto? Io sono in macchina, ho appena finito il lavoro e sono fuori in macchina, su un parcheggio. Mi ricordi che lavoro fai adesso, Roberto? Lavoro in ufficio, sono detto agli ingombranti, cioè do gli appuntamenti agli utenti. Ok. Perché, cosa sono gli ingombranti? Gli utenti sono ingombranti? No, gli ingombranti. Che peraltro può anche essere, può non essere male come definizione all'interno, se arrivano gli ingombranti, dai. No, gli oggetti voluminosi, ingombranti. Ok. Roberto, quando è che hai smesso? Proprio hai appeso i guantoni? A 40 anni circa ho smesso di giocare, sono una società dilettantistica, alla fine. Non ti capita neanche di fare una partita tra amici, calcetto, calcio a 7? È un po' difficile perché mi è successo un'altra cosa, un altro inconveniente nella vita e quindi da poco. Ok. E quindi non posso più fare niente. Insomma, niente attività fisica. Però, senti, a un certo punto del racconto tu dici, dopo che racconti che fai i provini, vai nel Bologna, stai un anno a Bologna, arrivai ad avere 21 anni, che sembra un'età, cioè, sembra neanche arrivare ad avere 50 anni, a quel punto smisi. Invece no, a 21 anni già è segnata la carriera di uno sportivo. Eh sì, perché diciamo che inizia molto presto. Devi entrare dentro le giovanili a 14-15 anni perché ti devono coltivare loro. Diciamo che al 90% è così nel calcio, perché può succedere, come ci sono dei casi, che uno anche fresco, che è un mio carissimo amico, che è Fedato, che era nei dilettanti è andato in Serie B. Come si chiama, scusami? Fedato. Sedato? Sì. Che gioca, dove? Nel Bari. Nel Bari. Ok. Quindi poi succedono dei casi. Però insomma, appunto, sono casi, tu dici, insomma, di solito uno cresce. Cresci, sì. Tu quell'anno di Bologna te lo sei fatto. Com'è stare un anno in una giovanile? Cioè, com'è la giornata tipo? La giornata ti alzi alle 7 circa, fai colazione con tutti, parte il pulmino, ti accompagnano in centro a Bologna e dopo vai a scuola, prendi l'autobus, vai a scuola e finito a scuola vai a mangiare, dopodiché vai all'allenamento, alle 3 c'era allenamento, e sempre con l'autobus. Dormi in camerata, dormi in camerette? Dormivo con un altro portiere di Firenze, che era molto bravo anche lui. Vi facevate compagnia praticamente? Facevamo compagnia, sì. Eravamo una quindicina di camerate circa e ci siamo divisi un attimo un anno insieme. È stato molto bello. Quando è stato, Roberto, se c'è stato, il momento in cui ha detto... Dai che ce la faccio, stavolta arrivo, non so dove, non so cosa voglio dire farci, poi è arrivato un messaggio arrabbiatissimo, ma cosa significa avercela fatta? Fa avere successo in quello che si fa banalmente, c'è stato un momento in cui l'hai pensato oppure mai? Sì, ci ho pensato nel momento che ho passato l'ultima prova proprio a Casteldebole a Bologna, che mi hanno voluto rivedere e lì mi hanno detto sì, ok, sei dei nostri. Ero molto molto felice, tutti i miei genitori erano tutti felici, ma come ti ho scritto, sai che le cose sono andate diversamente, purtroppo. Certo. Ci sono delle scelte che vanno al di là. Chiaro, volte... che sono forse più grandi di noi, però come dicevo nel racconto, Roberto, alla fine puoi bearti del fatto che siete stati tu e Yashin a prendere solo 6 gol in una stagione. Roberto, sì. Ti ringrazio molto per la storia e per la chiacchierata. Grazie a te. In bocca al lupo. Sei grande. Ti ringrazio. Anche tu non scherzi per niente. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao, grazie. Voi siete qui. La posizione e anche un po' la postura, devo dire, nella foto che ci ha mandato Roberto, che trovate come al solito sul nostro sito, alla nostra pagina Radio 24, voi siete qui, è proprio quella del portiere, un po' del calciatore, ma anche del portiere, braccia conserte, strette in modo che si vedano sia i muscoli delle braccia, sia i pettorali. È in un posto magnifico, credo sia il giardino di casa sua, c'è un grande sole, ci sono delle rose alle sue spalle, lui è un po' pelato, vabbè Roberto dai, è pelato insomma, c'ha il pizzo e guarda dritto in camera con la faccia di chi dice un giorno o l'altro ce la faccio. Giocai alla massima serie dei dilettanti, levandomi qualche piccola soddisfazione. Arrivai a non prendere gol per più di 1000 minuti. Ho girato molte società, ho vinto dei campionati e trofei regionali, ma il mio destino credo sia stato segnato fin dalla nascita. Doveva andare così. 349-238-6666. Insomma, si parla di questo oggi, di quella cosa per la quale voi eravate fortissimi. La sapevate fare benissimo. Non c'era nessuno come voi, o perlomeno intorno a voi, di quelli che non conoscevate. Eppure non ce l'avete fatta. È un pochettino la storia di Roberto di oggi. Però noi, quando abbiamo pensato alla puntata, anzi in realtà molto prima, cioè quando abbiamo letto la storia di Roberto, a me, Tiziano, ma perfino a Margherita, che non si interessa di calcio, ci è venuta in mente una persona, che è la persona che è venuta in mente anche a voi. Diciamo che è la persona che viene in mente a tutti quando si parla di un portiere, e si parla di un portiere italiano. È Dino Zoff, che è al telefono con noi. Signor Zoff, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Grazie per essere qui innanzitutto. Per carità, niente. La sottraiamo al suo tempo libero. Cosa stava facendo in questi minuti pomeridiani? Ma niente, stavo leggendo il giornale. Perché d'altra parte questa, mi scusi, non per entrare nel merito della sua vita privata, però io quando penso ai grandi personaggi come lei, io mi domando spesso, ma poi cosa fanno nel loro quotidiano? Ma io sono pensionato, quindi ho del tempo libero. E quindi lo passo facendo dello sport, naturalmente sempre a livello di pensionato, però insomma continuo nell'ambito sportivo e poi leggo, insomma, poi sono diventato nonno dei nipotini, quindi direi che... Insomma, ne ha di cose da fare, diciamo. Sì. Anche se mi permetta, signor Zoff, pensare a lei come un pensionato è una cosa... Per me lei comunque continua a volare là, tra i pali di quella porta... E immagino sia così per tutti quelli che la pensano. Senta, partiamo dal racconto di Roberto. Roberto è stato un portiere, ci racconta nella sua storia di essere stato anche uno forte, però che non ce l'ha fatta. La prima cosa che vorrei capire da lei, che è stato appunto non solo un calciatore, ma è stato anche un allenatore, perché alcuni ce la fanno e altri no? Beh, prima di tutto ci vuole un po' di fortuna, ecco, in determinate occasioni ci vuole un po' di fortuna, poi dopo ci vuole perseveranza, attitudine, ruolo, voglia di emergere, costanza, insomma, voglia di lavorare, tutte componenti per tantissime altre professioni, però certamente in qualche situazione un po' di fortuna non guasta. C'è qualcuno, parliamo proprio di calciatori, cioè in ambito sportivo, quello che è stato il suo mondo e che è ancora il suo mondo, c'è qualcuno che ha conosciuto e su cui lei avrebbe proprio scommesso e invece non ce l'ha fatta? Ma scommesso forse no, però alcuni avevano grandi qualità e potevano migliorare, diventare più forti di quello che diventati, ma per ragioni di magari si sono montati la testa qualcuno crede che sia sempre semplice, invece l'esordio è abbastanza possibile, il mantenimento del posto, del ruolo, il miglioramento è più complicato. Invece un altro aspetto di cui parla sempre Roberto, l'autore della puntata, della storia di oggi, è che forse è una cosa un po' romantica o poetica, o noi da fuori la vogliamo vedere così, però lei è la persona più giusta per parlarne. La questione della solitudine del portiere, no? Che tutti sono lì che giocano, che si tirano la palla e lui è lì da solo che aspetta. È vera questa cosa? Ha mai avuto degli attimi di solitudine reali in campo? No, è verissimo, il portiere fa parte di una squadra, però ha un ruolo particolare, certamente ci sono dei tempi morti dove il portiere veramente è solo ed è importante in questi momenti magari non ricordare magari una parata mal fatta, riuscire ad aspettare la prossima con la convinzione di farla bene, quindi non ti puoi sfogare, devi solo aspettare, anche perché il portiere oggi va da sempre e fa 5, 6, 7 parate in una partita, e quindi deve essere, sono delle partite che prendi 3 gol sei entrato quindi devi reagire per non prendere il quarto. Ma quindi c'è una solitudine, un pensiero che ti esprime certe volte. Ma ad esempio invece ci sono delle giornate in cui funziona tutto. Ieri, guardi, la partita giusto di ieri sera della Juventus contro il Copenaghen, no? Immagino che l'abbia vista. Il portiere del Copenaghen ha praticamente parato l'impossibile. Cioè, può capitare che semplicemente vada bene un giorno e un altro no? No, è possibilissimo, però generalmente ti va bene le migliori condizioni psicofisiche, ecco. Quindi hai anche quella fortuna che aiuta i bravi, se vogliamo, ecco. Questo succede, quando non sei in forma difficilmente ti riesce di fare tutto. Lei tutto. C'è una parata su tutte che si ricorda meglio delle sue? Ma guarda, la parata che, anche se non me la ricordassi io, me la ricordano qualsiasi tifoso che incontra strada, è quella dei mondiali del 82, il Brasile, a pochi minuti dalla fine, sul colpo di testa di Oscar, io andò in tuffo e la tenni lì, insomma, in modo da far vedere anche all'arbitro che non era entrata, insomma, no, è stata veramente una parata importante. E invece, diciamo, la papera più grossa che ha fatto, se la ricorda? Caspita, me la ricordo, sì, mi ricordo tempi in Serie B, mi parlo degli anni che 60, eccetera, avevo preso una palla, stavo per rinviarla, la battei per terra, invece di batterla sul terreno. La mantenne sulla punta della scarpa, fece 3 metri e lì era rimasto Clerici persino, e la buttò e non se n'era accorto nessuno di cosa era successo. Ma poi per dire, era l'epoca in cui non c'era ancora YouTube, altrimenti sarebbe ovviamente sui siti come la papera di Dino Zoff. Signor Zoff, io prima di salutarla, ringraziandola ancora, volevo chiedere una cosa che non ho mai capito: ma la partita scopa in aereo con Pertini, chi l'ha vinta? No, purtroppo, insomma, l'ha vinta Bearzotto e Causio, io il presidente l'abbiamo persa. A dire la verità, c'è stato un piccolo errore del presidente e mesi dopo, insomma, lo ammise, anche se lì per lì io non ho avuto il coraggio di retarguirlo. Beh, immagino. Signor Zoff, la ringrazio ancora, la faccio tornare. Prego. Al suo tempo, ai suoi impegni. Grazie davvero, a presto, arrivederci. Prego. Arrivederci. In favore del Brasile, Eder ha parato Zoff, il colpo di testa parato sulla linea, il colpo di testa di Paolo Isidoro. E Paolino Corleoni, veloce come una lippa, ha subito trovato il contributo di quella parata con Nando Martellini, che con una calma olimpica dice: Dino Zoff ha parato, cioè ha preso una palla che praticamente sembrava dentro, anche se ogni tanto però non mi spiacerebbe immaginare su YouTube la papera di Dino Zoff, invece no, rimane solo così, nell'etere e nella memoria sua e adesso anche di chi l'ha ascoltata. A proposito di poesia e di romanticismo legato ai portieri, ho trovato al volo anche una poesia di Stefano Benni sul portiere, sulla solitudine del portiere, è in 3 strofe, è brevissima, e l'ultima dice: e dai, tira, tira, cosa aspetti a finirmi? Vedo il pallone calciato che arriva come una locomotiva e sono solo nel cielo mentre volo incontro al tiro e voi trattenete il respiro. Solo quando c'è il rigore vi ricordate di me. Lo so, del vostro portiere. Ditemi il perché. 349-238-6666. Qualcuno invita non Dino Zoff, invita Roberto, che dice: se Roberto è sposato lo convoco per la nostra squadra dell'oratorio. Tra poco abbiamo la sfida molto sentita tra Scapoli e Ammogliati e uno pensa che quella roba lì esista solo nei film di Fantozzi. E invece no, però secondo me prima non esisteva. L'ha fatta Fantozzi e poi è stata replicata. Il nome non lo dico, perché è troppo unico e quindi verrà riconosciuto. 38 anni, ginnastica artistica, partecipato a 2 campionati di Serie A, 5 campionati italiani. Se avessero litigato meno in società, ce l'avrei fatta. C'è anche un po' di... perché quelli hanno litigato in società e io non ce l'ho fatta. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata di oggi, che sono Tiziano Bonini, Margherita Ina, Paolino Corleoni e Mauro Pescio. Grazie a Dino Zoff, ovviamente, e grazie soprattutto a Roberto. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Salve, mi chiamo Manuela, vivo a Viareggio. La storia di domani è la mia. Parla di un ritorno a casa dopo 8 anni di vita all'estero. Questa è la mia storia e io sono qui.